Epilog. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Il maschio alfa è una personalità che è dentro di te. Fin da piccolo hai sentito il bisogno di essere un maschio alfa. Eppure la società ti ha bloccato. Ti sarà sicuramente capitato di sentire da piccolo, ma anche adesso, anche durante l'adolescenza, anche durante la tua maturità, di sentire il bisogno, ad esempio, di essere il capo di altri, di essere una guida per altre persone. Il maschio alfa è il seduttore per eccellenza. Un vero seduttore è un maschio alfa. Il maschio alfa è un uomo capace di creare attrazione nelle donne. È un leader. Il maschio alfa è diventato proprio un mito irraggiungibile. Su un povero, indifeso, timido ragazzo su YouTube proclama se stesso maschio alfa e enumera quelle che sono le inarrivabili qualità del maschio che non esiste più. Siamo a un incrocio veramente periglioso per la virilità e per il senso di compattezza degli uomini. Gli uomini hanno imparato a essere carezzevoli, ad essere timidi, ad essere gentili. Soprattutto hanno imparato che alle donne piace l'uomo che non sia troppo palesemente dotato di quelle qualità che negli anni hanno reso l'immagine del maschio alfa, cioè del maschio dominatore, come essere brutale, essere spregevole, essere lontano dagli orizzonti culturali e accettabili in una società avanzata. E qual è stato il risultato? Si è perso il modello. Non esiste più l'uomo brutale che sappia essere uomo e allo stesso tempo non sappia essere un bruto, una persona che infierisce, manesco, che non osserva le regole basilari della convivenza, che non ha rispetto delle donne che ha attorno a sé. E quindi c'è una improvvisa ricerca, girano uomini e donne, sociologi e osservatori, come se fosse Diogene con la lampada, alla ricerca del maschio perduto. E dove si trova il maschio perduto? Ma si trova nascosto in qualche anfratto, timoroso di rivelare se stesso, vive camuffato, vive simulando, vive cercando di essere qualcosa che visceralmente non cerca di essere, magari nottetempo, come fosse un licantropo, esce fuori allo scoperto e manifesta tutta la sua virulenza. Il maschio alfa in realtà è una lettura molto teorica applicata al regno animale, molto difficile ad essere applicata a una società avanzata e articolata come la nostra. Però il solo evocarlo, il solo farne sentire il ferino odore, il solo far immaginare la sua pelosa e rude esistenza ha dato sempre un profondo brivido nei nostri ascoltatori, soprattutto le nostre ascoltatrici, che per quanto si sono dimostrate perfettamente in linea con tutte le giuste, lecite, sacrosante riprovazioni che solleva la società nei confronti della brutalità maschile, della non comprensione di una sorta di equiparazione dei ruoli, dei doveri e dei diritti, comunque rimpiangono quel tanto, quel minimo, quel po' che possa esserci rimasto di mascolinità nei loro uomini depilatissimi, profumatissimi, manicuratissimi, pedicuratissimi, gentilissimi, rispettosissimi, veri cavalieri. Ma alla fine quando sono uomini? Beh, noi abbiamo più volte lanciato questa sorta di SOS, questo grido nella foresta, questo lugubre ululato alla ricerca dei maschi alfa. Qualche volta ci hanno risposto con disprezzo le ascoltatrici dicendo che ci rifacevamo a modelli arcaici ormai scoperti, altre volte con quel po' di languorino, con quel po' di desiderio, con quel po' di nostalgia per un uomo che era uomo al 100%, ci hanno risposto e ci hanno allucinato quello che era il loro sogno di mascolinità. E gli uomini si sono autorappresentati come meglio pensavano che potesse girare in quel momento per loro il vento favorevole. Vuoi come il ragazzino che su YouTube ha detto del maschio alfa che coincideva con la propria pallida visione, vuoi con tanti maschi che ci hanno chiamato rivendicando il diritto di esserlo anche se con le debite distanze. Massimo. Sì, buongiorno. Sei un maschio alfa? Ma non lo so se sono maschio alfa, però l'altra settimana parlavo con un paio di amiche del fatto che, almeno ascoltavo loro che si lamentavano del fatto che... Guarda, che già sospetto sto fatto, noi parliamo sempre con le amiche,

farlo. Sì, ho capito, però voglio dire, uno è libero di fare qualsiasi scelta, secondo me, nella vita. Cioè, la madre non si può destabilizzare. Cioè, comunque non lei adesso essere... riesce a mantenersi, lavora, ha una sua vita indipendente. No, io studio perché mio padre ha un'attività e... Beh, comunque fa il bamboccione, diciamo, in una dependenza di casa sua, non è che cambia molto. Sì, cioè, diciamo che vivo da solo mantenuto, però vabbè, questa era la volontà di mio padre. Vorrei questa... anch'io, anch'io volevo essere bello, ricco e mantenuto, e sì, pieno di donne. Sì, però faccio una vita semplice, non è no, che... No, ma mica che la invidio, dico, Levko, se può permetterlo, meglio così. Però non è che ha proprio risolto il problema, perché un domani che il papà le taglia i cordoni, che fa? Beh, lo so, dovrò cercare di... Quello è il problema, ma più sì, passa il tempo, sì, più difficile. Sì, diciamo che... Però, cioè, voglio dire, questo fatto della madre ultraprotettiva è un problema enorme. Cioè, io temo che sua madre la prenderà per fame prima o poi, se non si procura per lei gli strumenti di autosufficienza, Ti attenta, ti attenta. No, questo è vero. Sì, comincia a pensarci, perché adesso le ha allungato il guinzaglio un pochetto, se c'è esso vede, poi improvvisamente si taglia il guinzaglio e lei tornerà a quattro zampe come un cagnolo. Mamma, ti prego, rifammi. Ma io spero letto di entrare nell'attività, avevo scelto la scelta di lavorare, poi ho visto la... perché i miei hanno un'attività, insomma, che mi permette, posso entrare in questa attività solo se comunque sia continuo il percorso di studi. Ma loro la molleranno mai, a 90 anni ancora staranno lì, finché non è facile. Guardi, le consiglio, si tenga bene quello che c'ha di famiglia, anzi, un grande patrimonio. Anche l'altro fratello, che sta a casa... è un fallito, studia filosofia, pensa di fare professore universitario, gli ho detto. Però sarà il figlio prediletto da sua madre, perché sta a casa, si fa fare il letto. Certo, rischia certo, che lasciano tutto a suo fratello. Lo tratta come un figlioccio, come un bambinetto piccolo. Ma ha capito tutto suo fratello, Tuo fratello fa esattamente quello che vogliono da lui. Non fa una mazza, fa il filosofo, fa l'intellettuale, sì, fa fare sì, il letto, bravissimo, non bravissimo. Porta donne a casa, sta tranquillo. No, niente, è tipo prete, un pretone, è un pretone, quindi gliela metterà in quel posto sicuramente, quindi l'attività di famiglia stia attenta che passerà suo fratello, io ci starei attento, comunque faccia un po' lei. Melog, la realtà condivisa. In tutto il ragionamento che abbiamo finora fatto sull'eclissi del maschio, sulla scomparsa della mascolinità, esiste un grande equivoco, o perlomeno un grande dubbio. Non è che il maschio alfa si ripropone attraverso una sua lettura soltanto esteriore nella fosca, denigrata ma allo stesso tempo accarezzata a volte con desiderio figura del coatto, del grezzo, del burino. Sono tutte figure denigratorie che tendono a classificare nella società contemporanea la persona che cerca di ricoprire ruoli non propri al suo grado di istruzione, alla sua raffinatezza nel proporsi, all'educazione, all'humus familiare in cui è cresciuto e attecchito. E data la globalizzazione dei consumi, data la circolare diffusione dei beni esteriori, è difficilmente riconoscibile, almeno a primo colpo d'occhio. Perché? Perché il burino probabilmente veste abiti firmati, ma vestire abiti firmati è segno di distinzione e di raffinatezza, non è sintomo in sé di burinaggine. Chi veste con abiti firmati burino? No, può essere anche una persona con un altissimo potere d'acquisto, con un altissimo valore sociale, ma quando li mette il burino si riconosce subito. Il burino è colui che non elabora un pensiero proprio e originale, al pensiero dell'arrancamento nella scala sociale, e quindi deve velocemente recuperare i passi perduti e cercare di guadagnare l'unica cosa che non può con la sua virulenza, con la sua forza primigenia, davvero maschio alfa, nel caso che sia maschio, ma il burino, ma è un altro tema, può essere anche rappresentabile nel genere femminile, lo fa cercando di rappresentare uno stereotipo che a volte fa sorridere, a volte fa tenerezza, nella mancanza totale e nella fuga totale dall'immagine di mascolinità. Molte volte il burino, il coatto, viene allucinato, preso erroneamente come un maschio residuo dell'antica mascolinità. Ma anche sul tema del burino siamo spesso interrogati, abbiamo cercato di fare quella che è una mappa nazionale regione per regione per vedere come questo concetto astratto ma molto presente soprattutto nella nostra scena culturale, nella divulgazione del pensiero quotidiano, sia declinato regione per regione.